Si è versato dell'altro caffè dalla moca, il terzo. E poi mi ha detto: tu, ad esempio, se dovessi raccontare un episodio della tua vita che ti rappresenta meglio, quale racconteresti? Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 minuti di un lunedì qualunque, 9 maggio 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Allora, caro Matteo, io ho un metodo infallibile per fare la valigia, testato e ritestato anche da amici inizialmente scettici. E l'oretta dedicata al bagaglio migliora notevolmente la vita in viaggio. Come faccio? Organizzo tutto come se la valigia fosse un mobile con dei cassetti. Magliette con i maglietti, pantaloni con i pantaloni, vestiti con i vestiti. Utilizzo le buste dei negozi, sai, quelle di cartoncino un po' spesso, scegliendole tra quelle con le misure giuste per, appunto, magliette, pantaloncini o abiti ripiegati. Così, ogni volta che prendo qualcosa e lo rimetto dentro, resta in ordine. La valigia si smonta in un secondo, se serve. Basta tirare fuori tutte le diverse buste barra cassetto, cioè buste cassetto. E soprattutto quando viaggi per lavoro, dormi ogni notte in un posto diverso, devi sempre essere ordinato e non spiegazzato. E voilà. Ciao, Barbara. PS, devo anche confessarti che sto pensando di brevettare questo metodo. Sto già disegnando una valigia ad hoc. Perché esistono metodi per tutto. Esistono metodi per fare la valigia, per fare le pulizie di casa, per tagliare il prato, per rimanere in forma, per studiare, per sbucciare le patate, per costruire una casa, per lavare la macchina, e soprattutto esistono metodi che ognuno di noi soggettivizza per fare il proprio lavoro. Alcuni inventano metodi talmente innovativi che semplificano la vita al punto da riuscire ad essere brevettati. Altri invece semplicemente sfruttano quei metodi per fare con più efficacia o con maggiore velocità un lavoro. I più fortunati poi nascono con metodi tramandati, scoperti dai nonni, dai genitori, metodi che rimangono come una sorta di patrimonio familiare. Io non so che metodo voi abbiate inventato. Non so se siete stati i più veloci a tagliare la legna o ad accendere il fuoco per una grigliata. Non so se quel metodo vi ha stravolto la vita o semplicemente ve l'ha resa un pochettino più facile. Comunque, qualunque sia il vostro metodo, quello che avete scoperto, inventato e brevettato, se volete raccontarmelo, io sono qui. E il numero per chiamare è quello, è 800240024, oppure per mandare un sms è 349-238-6666. Ho parlato con il mio nuovo vicino di casa e mi ha raccontato un metodo, è un metodo molto interessante che lui usa per fare il suo mestiere, ma che in qualche modo riguarda anche me. E credo che oggi chi di voi ha intenzione di partecipare al gioco del racconto che vi racconta, venire al Salone del Libro o anche solo spedirlo a Io sono qui, @radio24.it, ecco, credo che oggi capirà meglio da dove arriva questa cosa e perché. A proposito del Salone del Libro, per cui mancano due giorni, no, lunedì, martedì, lunedì, giovedì, tre giorni, mancano tre giorni alla puntata di Io sono qui live dal Salone del Libro, dobbiamo fare un piccolo mea culpa noi della redazione di Io sono qui, abbiamo fatto di tutto, abbiamo chiesto con grande insistenza anche, quasi che ci hanno cacciato, solo per l'insistenza che abbiamo usato, di avere i puff come l'anno scorso. Niente, i puff allo stand di Radio 24 quest'anno non ci saranno. Ci saranno delle sedie però, che non saranno probabilmente così comode, ma saranno forse di più. Ma visto che, di più dei puff dell'anno scorso, visto che però sono arrivate diverse adesioni, le chiamiamo così, allora oggi vi chiediamo, se siete in ascolto e sapete che giovedì alle 16 siete là al Salone del Libro a sentire il programma in diretta e quindi riempirete quelle sedie, mandatemi un messaggio 349-238-6666 e mi scrivete semplicemente "io sono lì" e il nome, ok? Non è che vi prenotiamo le sedie. Le pazze risate di là in regia. Non è che vi prenotiamo le sedie, semplicemente sappiamo dove siete e come mettervi. Si pensava anche di dividere il pubblico. Io sono lì e il nome 349-238-6666. È una sorta di servizio di prenotazione live per la puntata di giovedì alle 16 dal Salone del Libro. Torniamo invece al racconto di oggi, che riguarda appunto il metodo che il dottor Salvati mi ha raccontato, perché di fatto ognuno di noi ha inventato e ha messo a punto un piccolo metodo, veramente per fare qualsiasi cosa, eh. Se è il vostro lavoro, lo fate meglio in quel metodo, bene, ma se è anche solo per pulire i fagioli borlotti, per pulirli e sistemarli, va benissimo. 800240024. Luca dice: io ho inventato un metodo per fare la spesa, però non dice qual è. Luca, magari è meglio se o me lo scrivi o me lo racconti. Stella, ho inventato un metodo per tagliare a materasso tre modelli. sviluppare le taglie dei modelli direttamente sul tessuto. Stella è una sarta, mi sembra di capire. Anzi, ne sono quasi sicuro. Maria, mio figlio, 10 anni, al campus estivo di basket, essendo il più lento al mattino per prepararsi, ha risolto il problema andando a dormire già in divisa la sera. È stato sempre tra i primi. Esatto, un metodo tipo questo è semplice semplice. Però, Luisa, la sera prima di uscire dall'ufficio, scrivo su un foglio le cose che devo fare e che mi impegneranno per il giorno o i giorni successivi a questo della sera prima. Al mattino, dopo il caffè e le chiacchiere con i colleghi, metto le cuffiette e parto con Runaway Live, Runaway Live in Abbey Road di Jamiroquai, credo, sì. E continuo e attacco da quello che ho lasciato la sera prima. Gabriella, dare tempo, organizzo il lavoro, relazioni verbali, orari, progetti e pagelle. Lascio riposare il tutto almeno una notte, riprendo il lavoro, rileggo e consegno. Come se fosse una ricetta. Una ricetta che avete inventato, un metodo. 800240024. Fabio, uso il metodo Pomodoro. Uso il metodo Pomodoro per studiare e lavorare in ufficio. Le cose da fare sono misurate in pomodori. Il pomodoro è un timer che dà il tempo e il ritmo. E poi ci sono le pause e tutto il resto. Funziona bene, ma è difficile da mettere in pratica per un incosciente come me. Questo metodo del pomodoro bisogna capire che cos'è e lo capiremo. Ripeto, il numero è sempre quello: 800240024 349-238-6666. L'SMS vale sia per partecipare al tema di oggi, sia per dire giovedì io sono lì e il vostro nome. Veniamo invece a quello che mi è successo venerdì sera. Veniamo al dottor Salvati, veniamo al suo metodo. Venerdì sera, appena tornato dalla radio, mi sono sdraiato sul divano e mi sono addormentato. Da qualche giorno, forse da quando è arrivato il caldo, non lo so, dormire mezz'ora prima di cena è forse la parte più godereccia della mia giornata. Figuratevi il resto. Quando la giornata è quasi finita, ma ancora no, che ancora devi pensare alla cena e a cosa fare della tua serata, che poi magari non fai niente, eh? Mangi un riso in bianco con l'olio e stai tutta la sera davanti alla TV. Però quel momento lì è proprio bello. Ecco, e proprio mentre mi stavo per addormentare è suonato il campanello. E non il citofono, no, proprio il campanello, quello della porta, quello che indica che la persona che ti cerca è già dentro al cortile, è proprio davanti alla porta di casa tua, che è una cosa che se ci pensi è quasi inquietante. Mi sono alzato con il cuore che batteva senza aver capito bene il perché e ho aperto la porta. Mi sono trovato davanti Massimo Cacciari. Avete presente il filosofo, l'ex sindaco di Venezia? Quello che nello stesso discorso riesce a mandare a quel paese il direttore di un giornale di destra e poi mettersi a parlare di estetica della modernità. Ecco, lui. Solo che aveva qualche anno in più e la barba meno folta. Si è presentato come il mio nuovo vicino di casa. Indossava una giacca leggera, forse di lino, e dei pantaloni molto morbidi. Teneva in mano una borsa di cuoio sformata e un raccoglitore sotto il braccio. L'ho salutato dicendogli «Buongiorno, dottor Salvati». Lui ha capito che io avevo capito e mi ha chiesto scusa, mi ha detto che aveva bisogno di una cosa proprio da vicino di casa, che era saltata la luce nel suo studio e non sapeva dove fossero i contatori. L'ho fatto entrare, ha appoggiato la borsa su una sedia e il raccoglitore sul tavolino, di fianco al divano. L'ho accompagnato in cantina, dove ci sono tutti i contatori. Siamo risaliti e gli ho offerto un caffè. Il dottor Salvati non è una persona affabile e proprio per questo mi piace. La sua voce sembra ingolata, ha un'espressione quasi burbera. Però sembra una di quelle persone che pensano prima di parlare. Forse perché parla poco, non dice troppe cose che non c'entrino con quello che si sta dicendo. È un po' come se misurasse le parole non per spocchia, semplicemente per ridurle all'essenziale. Io gli ho fatto un sacco di domande e lui non sembrava esserci abituato. Mi ha detto che fa questo mestiere da 30 anni, che ogni paziente è un mondo talmente complesso che ci vogliono mesi, a volte anni, per capire, per districarsi e poi cercare di risolvere i problemi. E molto spesso non si riesce a farlo. Mi ha detto che sta scrivendo un libro e il venerdì pomeriggio se lo tiene libero per scrivere e consegnare il lavoro in tempo. Evidentemente aveva voglia di cambiare discorso, ma io non ho mollato il colpo perché la cosa mi incuriosiva troppo. Ho chiesto che com'è arrivare alla fine di una giornata in cui una decina di persone hanno riversato i fatti loro, le loro fobie, i loro drammi, tutti lì, sul tavolino di fronte a lui. Lui ha detto che è un lavoro. Non è un lavoro come un altro, ma è un lavoro. Gli ho chiesto se ha un lettino. Lui si è messo a ridere. Mi ha chiesto quanti film di Woody Allen avessi visto. Poi mi ha spiegato che esistono vari metodi. Che quello del lettino non gli appartiene. Preferisce che le persone lo guardino negli occhi mentre parlano. Che il rapporto deve essere alla pari e non come quello tra un malato che è sdraiato e ha bisogno di assistenza e il suo soccorritore. Mi ha detto che nel corso degli anni ha studiato e usato diverse opzioni e poi ha trovato un metodo che pensa sia il migliore ed ha a che fare con la narrazione autobiografica. Ecco, lì sì che non sono riuscito a fermarmi e allora gliel'ho chiesto. E di cosa si tratta? I took all the old slot machine handle. You wavered in there and wobbled with the candle. At a wrist with blade twisted as if thrown on the coast. Cars in the rain sat silent in rows. You said went straight to your head. You said went to your head. Il dottor Salvati è il sosia di Massimo Cacciari, il filosofo con la barba, la faccia altezzosa e l'elocchio facile. È rimasto seduto al tavolo della mia cucina a bere caffè e mangiare biscotti per un'ora, venerdì sera. Quando abbiamo iniziato a parlare ha fatto una cosa che io ho visto fare poche volte alle persone con cui parlavo, anzi, no, direi praticamente mai. Ha tirato fuori il cellulare dalla tasca e lo ha spento. Mi ha chiesto che lavoro facevo, sembrava molto interessato. Poi però mi sono ricordato che lui di mestiere è uno che ascolta le persone, quindi non era il caso di farmi trarre in inganno. Poi ha iniziato a parlarmi del suo metodo e lì mi sono messo io ad ascoltarlo, quasi per un'ora intera. Mi ha raccontato che per anni era rimasto seduto a fare delle domande alle persone che aveva di fronte. Prendeva appunti, le faceva parlare anche per ore, prima di arrivare al dunque. Lui cercava di parlare il meno possibile e di fare solo le domande giuste, ma non sempre funzionava, o almeno non con tutti. Quindi, alla fine, ha optato per un'altra soluzione. Nel tempo si è accorto che le persone raccontavano meglio gli episodi, piuttosto che sensazioni o situazioni emotive. Come a dire che per rispondere alla domanda chi sei, ai pazienti veniva più facile passare attraverso una storia della propria vita. Una storia che li rappresentasse, in cui si erano sentiti particolarmente a disagio o particolarmente bene, o comunque gli fosse rimasta in testa. Si è versato dell'altro caffè della moca, il terzo, e poi mi ha detto: tu, ad esempio, se dovessi raccontare un episodio della tua vita che ti rappresenta meglio, quale racconteresti? Io mi sono alzato, ho preso un bicchiere d'acqua. C'è stato un silenzio lunghissimo. Io pensavo che lui l'avrebbe riempito dicendo qualche cosa, anche solo con una battuta, un suono, un rumore, qualsiasi cosa che potesse interrompere quel silenzio. E invece se n'è stato zitto. Quando ha alzato gli occhi, mi stava guardando. E non mollava. Un episodio, mi ha detto, anche piccolo. Qualcosa che quando ci pensi hai la sensazione di una chiave che entra in una serratura e apre la porta. Ecco, dicendo questa cosa lui probabilmente pensava di aiutarmi. E invece ha peggiorato la cosa. Gli ho detto che ci dovevo pensare un po' su, che forse un paio di cose in testa ce le avevo, però dovevo pensarci su. E allora mi ha detto che certo che dovevo pensarci su, che ai suoi pazienti non chiedeva di raccontare subito un episodio, anche perché di solito il primo che viene in mente non è mai quello giusto. Lui i racconti glieli faceva scrivere. Ha indicato al raccoglitore che stava appoggiato in mezzo ai giornali, sul tavolino di fronte al divano. Poi ha proseguito dicendo che non era importante lo stile o la lunghezza o il tempo del racconto, che non era importante nulla se non la storia, che fosse reale e non inventata, e che fosse piena di dettagli, che sono i dettagli che fanno il totale, sempre. Poi all'improvviso ha guardato l'orologio, si è accorto che era tardi, mi ha stretto la mano, ha ringraziato per il caffè, il contatore, ha preso la borsa di cuoio ed è uscito. L'ho accompagnato alla porta e sono rientrato in casa. Ho lavato le tazzine e la moca, poi mi sono infilato sotto la doccia. Sono andato al supermercato, ho cenato e mi sono messo sul divano. È stato solo allora che me ne sono accorto. È stato solo in quel momento, è stato quando ho guardato il telecomando sul tavolino in mezzo ai giornali, che ho visto il raccoglitore del dottor Salvati. Quello che aveva indicato parlando dei racconti che chiedeva ai suoi pazienti. Quello che aveva dimenticato a casa mia qualche ora prima. L'ho preso in mano. Sulla copertina Salvati aveva scritto con un pennarello nero queste parole: il racconto che vi racconta. Era venerdì sera. Avevo un fine settimana davanti e un faldone in casa pieno di episodi che alcune persone avevano deciso di raccontare perché raccontavano meglio di altri chi erano loro, la loro vita. Era una tentazione enorme. Sapevo che non avrei dovuto leggerli e sapevo già che non avrei resistito. questo messaggio che è straordinario, però è in vari pezzi. Allora, eccolo qua, l'ho rimesso insieme. Il mio coinquilino ha un file Excel con i colori di tutte le sue camicie, dei suoi pantaloni e delle sue cravatte, e ha segnato con una X tutti i possibili incroci, cioè quelli che la nostra amica gli ha consigliato come possibili e non inguardabili. Ciao Luigi. Questo è un metodo che va chiaramente fatto riportare alla categoria patologie. Metodo per svegliarsi. Questo è un metodo per svegliarsi che ha testato Ale, Alessandro o Alessandra. La sveglia avanti o indietro di qualche minuto. Esempio, 2 ore e 32 minuti. Non ho cosa dire. Vabbè, semplicemente mettere la sveglia avanti o indietro di poco, perché appena suona devi calcolare che ore sono e così si sveglia il cervello. Per anni ho zappato usando un solo braccio, poi ho scoperto un metodo per stancarmi meno e ottenere di più: alternare le braccia. Da allora lo uso per tutti. Va bene, il mio metodo infallibile per evitare venditori ambulanti, gente che non ha voglia di salutare e quelli che ti chiedono la firma per qualcosa è la finta telefonata. Beh Stefano, la finta telefonata ormai è utilizzatissima da chiunque, mica solo per i rompipalle. Ho scoperto anche che cos'è il metodo del pomodoro. Allora, il metodo del pomodoro è un metodo di time management. Per molte persone è semplicemente l'unico. In sostanza, tu cosa fai? Scegli un compito in ufficio o nella vita in generale. Scegli un compito che devi completare. Imposti un timer che l'inventore di questo metodo aveva scoperto essere un timer a forma di pomodoro che aveva in casa. Lo imposti il pomodoro a 25 minuti. Lavori sul tuo compito senza distrazioni, senza interruzioni, fino a che il pomodoro non suona. A quel punto metti spunti sulla tua lista delle cose da fare, perché quella cosa l'hai fatta. Prendi un break di 5 minuti e poi avanti, ancora un altro pomodoro. Ogni 4 pomodori prendi una pausa un pochettino più lunga. Tra l'altro, se riesco a dire pomodori detto bene invece che pomodori, magari mi danno anche un premio. Questo è il metodo del pomodoro. Non so chi l'abbia utilizzato. Mi pare Fabio ce l'avesse scritto. 800240024 349-238-6666. Qualsiasi metodo. E infatti abbiamo un metodo per pulire le bottiglie dalla passata di pomodoro della nonna. Pronto Alessandro? Ciao. Ciao, grazie per essere qui. Perdonami, mi è scappata una risata perché l'ho detto forse in maniera un po' troppo altisonante. Però è un metodo che ha un senso, giusto? No, al di là, sì, assolutamente ha un senso e per me è stato vantaggioso quando sono passato dall'infanzia all'adolescenza, avevo circa una decina di anni e i miei nonni erano mezzadri e pertanto avevano un grandissimo campo di pomodori e la nonna faceva una gran buonissima passata, oltre al ragù. Quando è che si fa esattamente la passata? Che si mettono tutte le bottiglie e si fanno bollire i pomodori? Alla fine dell'estate? Esattamente sì, e poi dopodiché si mette all'interno la passata di pomodoro, poi la nonna ovviamente li faceva a bagnomaria in modo che potessero conservarsi per oltre un anno. Ok. No, però stagione per stagione le bottiglie dovevano essere primariamente, man mano che si utilizzava la passata ovviamente venivano lavate, mm-hmm. Poi quando poi arrivava la stagione nuova per rimetterli dentro, nuovamente bisognava lavarle. E quando ti trovi davanti a un centinaio di bottiglie e sei un bambino, un ragazzino appena fatto, ovviamente hai necessità di ridurre i tempi. E abbiamo scoperto un metodo, Alessandro, per ridurre i tempi nel lavaggio delle bottiglie. Qual è? Esatto, cioè l'acqua ovviamente viene messa all'interno per sciacquarla, ma per rovesciarla tu la metti a testa in giù e fai un movimento circolare per creare un vortice all'interno e ogni bottiglia, calcolato, ci mette la metà del tempo che far scendere l'acqua normalmente. Alessandro, tu sei un ingegnere? No, tutt'altro. No. Che cosa fai nella vita? Sono un direttore commerciale di un'azienda di Milano, ma ho studiato come operaio specializzato in meccanica. Io sono un meccanico principalmente, ma poi non l'ho mai fatto in vita mia. Ok, comunque insomma, arriva da una formazione tecnica questa della bottiglia che viene creata come vortice. Grazie mille Alessandro, buona giornata. Grazie anche a te. Ciao, grazie. 800240024. Intanto Claudio mi scrive: quando racconti il tuo racconto che ti racconta, io ve lo racconto, mica a caso, il giorno del Salone del Libro, cioè giovedì 12 in diretta da là. Potete ascoltarlo alla radio, ma se venite siamo tutti più contenti. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella fotografia di oggi siamo in Oriente e vi consiglio di andare a vederla sul sito radio24.it, la pagina di Io Sono Qui. Queste sono esattamente le foto che preferisco, perché che siamo in Oriente lo si capisce dagli ideogrammi, dalle cose scritte sulle pareti di una casa in fondo all'angolo della strada. C'è una strada invasa da motorini, invasa da persone col casco, ma invasa vuol dire che sembra una manifestazione, quindi non riesco a capire come possono andare da una parte all'altra. Invasa completamente. succedere. C'è un taxi bianco, minuscolo, in mezzo ai motorini che viene quasi affogato. Potrebbe essere dovunque, in Oriente, perché si vedono le facce delle persone sui motorini, hanno i lineamenti orientali. Però sulle pareti dei palazzi ci sono una marea di informazioni. C'è un ristorante che si chiama Le Marlot, quindi è un ristorante in lingua francese, quantomeno il nome è francese. Ma poco più a destra capiamo con perfezione, alla perfezione dove siamo, perché c'è un cartello giallo che scrive Vietnam Airlines. Edoardo Iacolli, 32 anni. E all'improvviso mi viene in mente una frase di Bukowski, tipo che sulla via per l'inferno c'è sempre un sacco di gente, ma è comunque una via che si percorre in solitudine. Hanoi, 2009. Affollatamente in solitudine, io sono qui. Io ringrazio tanto Edoardo, però vi assicuro, a parte che stai su Edoardo, mi raccomando, stai un po' su perché ti sentivo veramente abbacchiato, e soprattutto perché guardando questa fotografia tutto ti viene in mente tranne che una via per l'inferno affollata di gente. Sembra semplicemente un sacco di gente che va da una parte all'altra. 800240024 349 238 6666. Allora, innanzitutto Marco, riguardo al Salone del Libro, mi scrive: presente tutti i giorni al Salone del Libro allo stand della Zecca, ritaglierò un'ora per venire a vederti. Ma la Zecca che fa, la Zecca di Stato che fa, c'è uno stand della Zecca di Stato al Salone del Libro? Bene, 800240024 349 238 6666. Torniamo qui. In aeroporto Alex mi scrive: ti fermano sempre per fare carte di credito, nei centri commerciali ti offrono abbonamenti televisivi o telefonici. Il metodo per evitare è dire che risiedi all'estero. Grazie Alex, Serra Mazzoni, Modena. Credo che Serra Mazzoni sia il paese, un paese che si chiama Serra Mazzoni. Però non abbiamo molto tempo, andiamo subito alle telefonate. Andiamo da Manlio a Macerata. Pronto Manlio? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo, grazie. Senti, direi che oggi pullano i metodi per svegliarsi la mattina senza evidentemente fare tardi. Anche il tuo ha a che fare con la sveglia, però raccontacelo nei dettagli, Manlio. Dunque, allora, per non fare tardi a lezione, quando ero studente, avevo trovato questo sistema. Visto che mettere la sveglia sul tavolo non era sufficiente, perché mi alzavo, la spegnevo e mi rimettevo a letto, allora chiudevo la sveglia nell'armadio che avevo vicino al letto. Poi la chiave dell'armadio la chiudevo nel cassetto della scrivania, sì, e la chiave del cassetto la chiudevo nella borsa da ginnastica. E dove era la borsa da ginnastica? Suonava, io dovevo aprire la borsa, prendere la chiave, aprire il cassetto e alla fine aprire l'armadio e spegnere la sveglia. Cioè c'erano quindi tre passaggi, cioè c'era la borsa con una chiave, il cassetto con un'altra chiave e l'armadio. Esatto. A quel punto non hai più voglia di tornare a dormire, no, tu dici? No, Mario era un po' nervoso, però beh, ero sveglio. Un po' nervoso lo immagino. Che lavoro fai adesso, Mario? Il medico. Ah, e usi ancora questo metodo oppure? No, ormai c'è mia moglie che mi sveglia, è diverso. Senti, se è un metodo di base, si dice, oppure se è un metodo specializzato in qualcosa di particolare? No, lavoro in un centro, in un ospedale per riabilitazione. Quindi sei un medico? No, io sono un medico che seguo la parte, diciamo, di medicina, la parte internistica dei pazienti ricoverati che devono fare riabilitazione, quindi okay. Sia dei neurologici, ortopedici per lo più. E tu, in quel caso ad esempio, ci sono metodi particolari che vengono seguiti, però immagino studiati negli anni, oppure ciascuno ha la possibilità di inventarsi metodi propri e sperimentare? No, è tutto molto codificato in questo settore. Ok, perfetto. Manlio, ti ringrazio moltissimo. Grazie. Buona giornata. Ciao, grazie. Dov'era quelli che hanno inventato? Non ce l'abbiamo più, quello che hanno inventato il girarrosto. L'avevo visto, non lo vedo. Eccolo qua, no. Antonio da Vicenza, sulla 5, pronto? Eccomi qua. Scusa, ciao. Antonio, non vedevo più la telefonata. Voi avete inventato un girarrosto gigante su un carrello portatile per fare varie sagre. Esatto, allora le nostre esigenze qual erano? Siccome noi facciamo parte del circolo culturale Sardegna Nostra di Bassano. Scusami, circolo culturale. Ok, Sardegna Nostra, avevo capito bene. Sì, siamo dei sardi, okay. E allora avevamo sempre il problema di cucinare gli agnelli, i maialini e così via. Certo. E quindi per esigenze nostre abbiamo pensato di inventarci qualcosa di nuovo, appunto di non fare grosse fatiche. Sì. Sì. E allora abbiamo preso un carrello, l'abbiamo fatto coinventare, all'interno di questo carrello abbiamo fatto costruire due girarrosti, cioè abbiamo messo due girarrosti sempre di nostra invenzione tipo planetario, sì, facendo il fuoco centrale col caminetto che viene fuori dal carrello. Senti Antonio, quanto vi è costato questo girarrosto portatile? Costa. Ma più o meno? È un impegno abbastanza pesantuccio anche per noi, ci costa quasi 18.000 euro. Wow, senti, ci ricordi il nome della, dell'associazione? Del... Il Circolo Culturale Sardegna Nostra. Grazie mille Antonio, in bocca al lupo, grazie, buona giornata. A voi, buona giornata, ciao. E dai metodi per svegliarsi la mattina ai metodi per non fare arrabbiare la moglie. Pronto Paolo? Ciao. Senti, me lo spieghi bene ciao. Questo metodo, non ho tantissimo tempo, però non potevo non prenderlo. No, perché io sto ancora ridendo per Maglio, per di prima, sul metodo delle chiavi, no, da chiudere la sveglia. Però che anche questo, per cui tua moglie ti deve parlare, giusto? Tu hai la televisione accesa, cosa fai? Esatto, allora, la cosa importantissima è spegnere, cioè auto, proprio auto C, cioè... che finisce con arsi, e quindi spegnere la televisione, dopodiché ascoltarla 30 secondi, ma subito dire guarda, so che è un problema importante per te, perché tanto è il solito problema col capo ufficio, per cui lei si sfoga in effetti, e vuole certo. una risposta da te, vuole una risposta come la vedi tu, no? Mm-hmm. Allora direttamente tu spegni e l'ascolti, e poi dopo le dici una cosa molto importante, dici guarda, so che è una cosa molto importante per te, ci penso stanotte, domani mattina la prima cosa che faccio è ti do la risoluzione. Quindi allora mi sembra che la questione sia spegnere la televisione, fondamentale, esatto, perché televisione. Così l'ascolti. Attenzione, cioè la mattina dopo ricordarsi appena svegli di dire la famosa frase, cioè? È questa, ciao cara, buongiorno, allora io ci ho pensato tutta stanotte, lo sai è una cosa che non mi ha fatto veramente quasi dormire, a questo punto io però volevo chiederti una cosa, ma tu come la vedi? E lei ti dice quello che gli devi dire, perché comunque tanto quello che devi dire tu, come la pensi tu, non gliene frega niente, lei gli interessa come la vede lei. Da quindi, quanto sei sposato Paolo? Da quanto sei sposato? 11 anni. Benissimo, ci sono tutte le donne all'ascolto che adesso stanno intasando le linee perché vorrebbero parlare con tua moglie probabilmente per dirti di mandarti a quel paese, però io accetto il tuo metodo, che è il metodo, diciamo, antistress. È favoloso, funziona Paolo. Sempre. È logico, bisogna dosarlo. Perché se tutte le sere tu spegni la tele e dici che non ci dormirai la notte, vivresti insonne. Paolo, senti, devo chiudere, ma ti ringrazio molto. Ciao, buona giornata, grazie. 349-238-6666. Chiudiamo con uno dei racconti che continuano ad arrivare a Io sono qui, @radio24.it, dove potete spedire il vostro racconto, che è il racconto che vi racconta, oppure venire al Salone del Libro giovedì. Era un giorno ideale per restare in ozio. La temperatura mite e un cielo grigio davano alle colline dell'Oltrepò Pavese un'aria sonnolenta, che ti faceva venire voglia di restare nel sacco a pelo. Gli amici sarebbero solo arrivati tra qualche giorno e la grande casa era semivuota. Solo Roberto con la famiglia, Vittorio e io. Roberto era già partito quando mi sono svegliato e sarebbe tornato solo la sera, per cena. Ma prima di partire aveva lasciato a Vittorio il programma di quel giorno: costruire la prima serra dell'orto. Quando ero arrivato lì, la prima volta non avevo nessuna esperienza di lavori manuali, solo tanto entusiasmo. Ma Vittorio era un ottimo insegnante e in pochi anni ho imparato a lavorare decentemente il legno, a lavorare nel giardino e a verniciare. Tutti i lavori più delicati e pericolosi, gas, acqua, elettricità, passavano solo dalle mani di Vittorio. Il resto lo facevo io. Dopo colazione ci siamo messi a lavorare, molto concentrati, senza fretta. I giorni precedenti, con tutti gli ospiti presenti, erano stati molto impegnativi e avere come unico compito della giornata la costruzione di una piccola serra ci metteva decisamente di buon umore. Solo al termine del lavoro, con la nostra piccola serra orgogliosamente in piedi, finalmente ci scambiammo una battuta. Non ricordo le parole esatte, ma il senso era quello che sto cercando di comunicarvi adesso: la soddisfazione di un lavoro ben fatto, senza nessuna aggiunta inutile. Fu una delle poche giornate perfette che io mi ricordi, ed anche una delle rare illuminazioni che credo di aver vissuto in quel luogo. L'anno successivo mi sarei allontanato per sempre da lì. Il racconto che vi racconta, io sono qui, @radio24.it, oppure al Salone del Libro, giovedì alle 16. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?